Prova a raccontare tutto anche se non vuoi. Non ti vergognare mai, non ti vergognare mai. Prova a raccontare tutto anche se non vuoi. Non è possibile ricominciare, sai, provaci ancora, sono qui per te. Sembra impossibile dimenticare ormai e dirti quanto sei romantica. Prova a parlare, sono qui per te. Non esitare ancora, dimmi che fai senza me, tu dove vai? Cominciare, sai, provaci ancora, sono qui per te. Sembra impossibile dimenticare ormai e dirti quanto sei romantica. Prova a parlare, sono qui per te. Non esitare ancora, dimmi che fai senza me, tu dove vai? Prova a raccontare tutto, anche se non...